mangiare. Oh mamma, ti ne prego non dirgli di no. Dite il babbo che comanda, gli daremo il benvenuto, balleremo con la banda, la quadriglia si farà. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eccola qua, eccola qua, eccola qua. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Già la banda comincia a suonare. Quadriglia si balla in famiglia, balla la nonna, la mamma, la figlia, balla e sospira, la sora consiglia. Alla quadriglia, alla quadriglia, balla papà con la sora modesta, che gli faceva girare la testa, quando a 20 anni faceva l'artista, quale conquista, quale beltà. Lui con ardore mentre si specchia dice quel cuore mai non invecchia, grida la moglie brutto cretino, l'occhio follino ti voglio pestare. E la quadriglia si balla in famiglia, balla la nonna, la mamma, la figlia, e grida che qua la bella Giuseppa, viva la Peppa, viva l'amore. Il maestro dirige la banda. Un, due, tre. L'avvocato comanda. Sono tutti un po' casati, c'è chi prende lo spumone, solamente i fidanzati, la premuta di limone. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Change la donna, change la fa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ma nessuno la vuole cambiare. La quadriglia si balla in famiglia, balla la nonna, la mamma, la figlia, il fidanzato fa l'occhio di triglia, alla quadriglia, alla quadriglia, poi si consiglia con sora consiglia, lei che conosce l'intera famiglia, dice parlando dell'unica figlia, chi se la piglia, chi la vorrà. Fece l'amore con un banchiere, poi col dottore, col saloniere, col cameriere d'una locanda, tutta la banda che senti suonare. E la quadriglia si balla in famiglia, fa il fidanzato, poi pianta la figlia, mormora che qua la sora Giuseppa, volga la Peppa come si fa. Finisce in famiglia, viene la nonna, la mamma e la figlia, dice il marito alla sora consiglia, cane la figlia, vattene va.